parliamone. Oggi è stato bellissimo. Sì. Cento di questi giorni. Il tempo passa. Un giorno, un mese, un anno. Ma improvvisare nella vita è difficile. È più facile col sax. Perché se fai cagare col sax, cazzo te ne fotti.